Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Diciassette e dieci minuti, inizia l'ultima puntata della settimana di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria, puntata che come sempre conterrà la poco invidiabile classifica della settimana e poi invece parleremo di un tema che è emerso oggi dall'allarme lanciato da Federalberghi a Roma, non relativo solo al sommerso, cioè a chi non paga le tasse sull'affitto e su strutture ricettive fantasma, 1 miliardo e 400 milioni di sommerso, 14.000 strutture ricettive fantasma e 20 milioni di presenze sommerse. Perché non c'è solo a fronte di 31.700 annunci di Airbnb, si ipotizza l'esistenza di altre 13.000 strutture fantasma, e il boom è per gli affitti brevi, più 215% della rendita delle case. Attenzione, questo è un tema molto delicato, ce ne siamo già occupati, perché nessuno ha nulla in contrario con Airbnb o con gli affitti brevi e permettere appunto anche a famiglie di... Però qui si sta invertendo il nesso, cioè non è che una casa che per vari motivi tu affitti in maniera breve perché non riuscivi a affittarle in maniera lunga. Qui stanno scomparendo gli affitti medio-lunghi con dei problemi abitativi molto forti nelle città, soprattutto quella a forte vocazione turistica. Penso a Roma, penso a Venezia, a Firenze, anche a Milano, che è diventata una città anche turistica. E non stanno scomparendo per i contratti, per esempio, gli studenti. Tra l'altro c'è la riforma, se non ricordo male, fatta da Renzi, rende più facile il contratto con gli studenti, cioè meno vincolante per il proprietario di casa, non corri il rischio che poi di non poter liberare l'appartamento. Il problema è proprio il guadagno, cioè se uno va a vedere la differenza tra quanto può rendere un affitto, e tra l'altro sta spingendo in alto anche il prezzo degli affitti, e quanto rende invece un affitto breve, come si chiamano quelli di Airbnb. Allora, tutto bene, per carità, fa entrare dei soldi nelle tasche delle famiglie che hanno questi immobili, però attenzione, non possiamo trasformare, in alcuni casi il rischio è fortissimo, centri storici di Venezia, per esempio, le città in alberghi, già sono, diciamo, c'è una forte presenza alberghiera, se trasformiamo tutta la parte residenziale in Airbnb, il vantaggio sarà per i proprietari, ma poi distrugge il tessuto urbano, e lo dico perché appunto l'incasso generato dalla locazione turistica per un soggiorno di due persone è aumentato del 215%, per cui la rendita delle case è del 215% più alta se tu gli affitti a breve. Ne parleremo nella seconda ora del programma. Ripeto, qui non si tratta di prendersela con Airbnb o con chi vuol mettere la casa in affitto, ma giustamente il comune e tutti i piani abitativi devono tenere o sviluppi edilizia anche per gli studenti o edilizia anche popolare, o se no qui il problema lo stai creando. Comunque arriveremo dopo a questo, la denuncia arriva da la colpa è dei prezzi folli degli alberghi, insomma sì. Caro Barisoni, a Napoli è vera crisi per le famiglie sul fronte degli affitti? Sì, non sto, ho citato alcune città classiche, Firenze, Roma, Venezia, sicuramente c'è anche Napoli. Comunque, andando avanti, degli altri temi di cui parleremo, al di là della classifica, come sempre la borsa, per quello che riguarda Milano, oggi c'è un netto recupero non solo a Milano, in tutte le borse europee, più 1,1% Piazza Affari, più 1% Parigi, più 1,5% Francoforte, più 1,20 Londra, invariato il Dow Jones. Non c'è un motivo se non speculare a quello che ieri aveva portato sulla base delle speculazioni sul coronavirus a vendere molti titoli, soprattutto nel lusso. Per quello che riguarda, dicevo, la borsa, e oggi si va a comprare per il motivo analogo, ossia sul coronavirus sono calate un po' le preoccupazioni dopo che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha detto che è troppo presto per parlare di epidemia. Tra l'altro Poste Italiane ha presentato il piano strategico a Londra e guadagna il 3%. Atlantia va molto bene, più 3,40%. Qui ci sono le indiscrezioni riportate oggi dal Sole 24 Ore, per cui secondo cui l'allontanamento di Autostrade per Italia, cioè la possibile scissione dentro Aspi, potrebbe essere una mossa strategica legata alla revoca delle concessioni. Poi ne parleremo. Bene, anche Prisma, più 3, Buzzi Unicen più 2,80 come era, Estimacro Electronics più 2,70, Leonardo più 2,5, Enel più 2,40, Telecom più 2, Nexi più 1,80, Case New Holland più 1,5, Exor più 1,40, Tenaris più 1,30 come Campari e Ferrari. Dunque, qualcuno sta già scrivendo molto degli affitti, so anch'io che in alcuni casi i proprietari non sono tutelati, però questo non vale per esempio nel contratto che si può fare per gli studenti. Ho capito che mentre tu affittare a breve non comporta il rischio che poi l'inquilino non se ne vada, ma io non sto, diciamo, contestando le ragioni dei proprietari, sto solo dicendo che nel momento in cui tu non regoli un fenomeno come quello di Airbnb, che è poco regolato, al di là delle tasse che Airbnb paga o non paga in Italia, l'amministrazione comunale deve farsi carico di questo problema, cioè non puoi lasciare la giungla totale, per cui sostanzialmente le città a maggior vocazione turistica e soprattutto nei centri storici, ma non solo, rendono di fatto impossibile l'affitto, o l'affitto sale a livelli stellari perché si confronta con l'affitto breve di Airbnb. Cioè, è un tema troppo importante per essere lasciato solo ai singoli proprietari di appartamento. Comunque, allora 349-238-6666 per sms e whatsapp. Andiamo rapidamente con le altre notizie in breve. Continuano gli incontri a Davos, oggi la volta delle banche centrali. Una cosa interessante prima di Davos. L'ex ambasciatore dell'Unione Europea presso l'ONU e gli Stati Uniti, il portoghese João Vale de Almeida, è stato nominato primo capo della delegazione europea presso il Regno Unito. Cioè è l'inizio della Brexit, o meglio, cioè, per la prima volta cioè l'Unione Europea avrà un suo rappresentante del Regno Unito. Chiaro che prima non ce l'avevi perché la Gran Bretagna faceva parte dell'Unione Europea, e quindi anche la procedura diplomatica va di pari passo. Vi sarà un rappresentante europeo, a me fa un po' strana sta cosa, però ci abitueremo, un rappresentante europeo dell'Unione Europea a Londra. Venendo invece a Davos, dicevo, mentre il commissario europeo agli affari economici Paolo Gentiloni dice no a rappresaglie e unilateralismo sul fronte dei dazi della digital tax, il premier Conte, che era oggi ad Assisi, ha detto: con il neoprotezionismo si rischia una nuova crisi. Alla rapida crescita di taluni settori, all'ascesa di alcune fasce sociali decisamente minoritarie della popolazione, hanno fatto da contraltare l'aumento drammatico, sappiamo, delle diseguaglianze nel reddito, sia all'interno dei paesi, sia nei rapporti fra diversi paesi, come pure l'incremento di coloro che sono rimasti indietro, esclusi dai benefici promessi dall'evoluzione tecnologica, che sono i benefici anche di un mondo globalizzato, con nuove prospettive di occupazione e di sviluppo che spesso sono state tradite e che hanno anzi accresciuto la disoccupazione a danno di persone che per età, formazione, sappiamo difficilmente convertibili per nuovi impieghi. Ecco, più in generale gli squilibri della globalizzazione hanno alimentato il terreno fertile di cui si nutrono anche oggi le tendenze neoprotezionistiche, le quali rischiano, lo sappiamo bene, di procurare all'economia mondiale un nuovo arresto che potrebbe, questo sì, rivelarsi esiziale, dopo una lunga crisi economica, esplosa nel 2008, la crisi più lunga del secondo conflitto mondiale. Allora, restiamo in Italia. Oggi le notizie si riguardano soprattutto l'Italia. Il 2019 si chiuderà comunque con una crescita dell'export del 3,8%, più che raddoppiata rispetto a quella del 2018. Questo rileva oggi l'Istat con il bilancio delle vendite extra Unione Europea, parliamo del commercio extra UE. Soprattutto grazie agli Stati Uniti e Svizzera, con tassi di crescita nelle esportazioni italiane che sono aumentate rispetto al 2018, insieme al Giappone. Invece in contrazione paesi OPEC, produttori di petrolio, e Turchia, anche Medio Oriente e Cina in contrazione. Il dato su dicembre però è di un meno 0,9%. Continuano a scrivermi gli ascoltatori: anche a Verona trovare appartamenti in affitto a cifre umane è diventata una cosa molto difficile. Sì, adesso vi arriviamo, capisco benissimo il tema, ripeto, non può essere lasciato solo alla trattativa privata. Comunque andiamo avanti, se no oggi non riesco più a condurre. E al di là appunto della denuncia che è arrivata dal Federalberghi di Roma, oggi il Consiglio dei Ministri, o meglio ieri il Consiglio dei Ministri, ha dato via libera al decreto del taglio del cuneo fiscale. Ce ne siamo occupati molte volte: bonus di 100 euro fino a 28.000 euro, poi quindi chi somma 80 più 20, cioè Renzi più i 20, poi detrazioni 80 euro per redditi fissi, di 80 euro per redditi fissi fino a 35.000 euro, e poi si azzera tutto a 40, dai 35 ai 40.000 euro. Polemica del presidente del Consiglio Conte con l'ex ministro e segretario della Lega Salvini, accusato di fare solo facili ironie. Abbiamo varato un decreto attuativo della manovra economica, l'avevamo scritto in manovra economica, abbiamo stanziato, pur in un quadro difficile di finanza pubblica, 3 miliardi già quest'anno, i primi 3 miliardi a beneficio dei lavoratori. I lavoratori avranno, in virtù del decreto di ieri, in busta paga 3 miliardi in più. Qualcuno fa della facile ironia, qualcuno che evidentemente ha una consistenza patrimoniale, per dire che sono spiccioli. Ci saranno alcuni lavoratori che prenderanno addirittura 100 euro al mese in più in busta paga, e poi a decrescere fino a 20 euro a secondo delle classi stipendiali. Fare della facile ironia, io rispondo soprattutto a chi è stato al governo per 15 mesi, al ministro Salvini che fa la facile ironia. Caro ministro, tu sei stato ministro degli interni per 15 mesi, perché non hai fatto tu questa proposta di taglio delle tasse ai lavoratori? Perché fai la facile ironia? E aggiungo, indossi la felpa per immedesimarti con le varie categorie professionali, per suscitare facile consenso. Perché durante i 15 mesi di ministro dell'interno non hai tu portato proposte concrete come abbiamo fatto noi per pagare gli stipendi arretrati delle forze di polizia e dei vigili, gli incrementi contrattuali che aspettavamo da anni? L'abbiamo fatto noi con tanti sacrifici. Ancora per quello che riguarda il Consiglio dei Ministri, ha deliberato oggi 345 milioni di euro per gli sfollati nel centro Italia e 28 milioni e mezzo per l'Emilia Romagna dopo i danni del maltempo, mi riferisco al mese del maggio 2019. Il Consiglio dei Ministri ha impugnato invece la legge della Regione Sicilia dello scorso novembre sugli assegni vitalizi. L'Assemblea Regionale Siciliana aveva approvato la legge col voto contrario di 5 Stelle, va detto, lo scorso 27 novembre, dove la norma prevedeva una riduzione lineare del 9,25% con un ulteriore 5% per gli assegni da 32 a 67 mila euro, del 10% per quelli oltre i 62 mila euro. I tagli da 2 milioni all'anno sono entrati in vigore il 1 dicembre del 2019, applicati per un quinquennio. Il Consiglio dei Ministri ha impugnato questa legge perché andrebbe a violare i principi di uguaglianza e ragionevolezza sancito dalla Costituzione. Faccio notare che l'Assemblea Regionale Siciliana dà ancora 150 vitalizi per un corso per un costo di 18 milioni di euro l'anno. Non è pochissimo, visti i conti della regione Sicilia. Deciderà a questo punto la consulta. Su questo sentiamo il relatore del DDL vitalizi, ossia deputato dell'Assemblea Regionale Siciliana, Antonino Antonello Cracolici o Cracolici, vicepresidente della Commissione Speciale, che è intervenuto oggi a effetto giorno con il nostro Alessio Maurizi. Da quel che mi risulta è che l'impugnativa riguarda il taglio temporaneo, ovvero la decisione che l'Assemblea regionale ha assunto di effettuare i tagli per 5 anni sulle pensioni che in atto eroga. C'è una disposizione che, devo dire, in ottemperanza oltretutto, ma questo io avevo auspicato che il Consiglio dei Ministri impugnasse la norma. A lei aveva auspicato l'impugnatura della norma, e per quale motivo l'avete fatta allora, se poi... Perché c'è un contenzioso giuridico tra noi e lo Stato, cioè l'idea stessa che si possano retroattivamente modificare diritti soggettivi è un punto, diciamo, che non è che lo dico io, lo dice il Presidente Emerito della Corte Costituzionale Mirabelli, ma lo dice la stessa sentenza della Corte Costituzionale relativamente alla Regione Trentino nel maggio del 2019, che ribadisce che gli effetti retroattivi di diritti soggettivi devono contenere due principi sui quali non si può derogare: la ragionevolezza del taglio e soprattutto la temporaneità. Ecco perché avevo auspicato che questa legge avesse anche, come dire, la possibilità di essere giudicata dalla Corte Costituzionale, perché una volta che la Corte si pronuncerà, questo varrà per tutte le regioni, ma anche per lo Stato. Cioè, è evidente che qui non si può continuare in una discussione infinita dove ci sono questioni di rilievo costituzionale che ad oggi la Corte non è stata messa nelle condizioni di poter esprimere. Allora, alcuni ascoltatori mi scrivono: Conte, il Presidente del Consiglio ha parlato come se non fosse sempre lui a governo nel Conte 1. Sì, per carità. Ognuno la pensi come vuole su Conte. Noi, come ho spiegato decine di volte, facciamo sentire in questo programma sempre i ministri e i Presidenti del Consiglio, qualunque sia il colore politico, da Berlusconi, Prodi in poi, e quindi... perché rappresentano appunto il governo in carica. Per quello che riguarda le elezioni, c'è qualcuno che continua a scrivermi sull'Emilia Romagna, adesso vedrai Barisoni, ma che devo vedere? Quello che so è che alle 23 inizieremo una diretta di domenica sera per commentare il voto, e poi avremo ampi collegamenti e dirette tutta la mattina dalle 5:30 e il leggero delle 6 in poi. Questo so, vedremo come andranno le elezioni. Vedo che il governo dice che non avranno impatto sul governo, vedremo, sicuramente un impatto politico ce l'avranno, su, ma non è che preoccupi tanto me e il programma che conduco. Comunque andiamo con la classifica, partiamo bassi. Allora io dico una cosa, io capisco tutto, ma cioè è possibile impegnare i carabinieri? Dunque, eccole qua, i carabinieri, la procura, e poi chiedere anche la procura, nel senso che poi il fascicolo viene dopo, archiviato, i carabinieri vanno a presentarsi a casa del soggetto a cui devono effettuare un dissequestro, perché vi era stato un sequestro prima, quindi cioè, pensate anche al costo burocratico della cosa, impegnare i carabinieri in questa attività, per che cosa? Per una tartaruga. Ma tra l'altro la tartaruga ha un problema, perché si dice giustizia lenta, giustizia lumaca o giustizia tartaruga. Qui c'è un grosso problema con la tartaruga, ve lo dico subito. Perché? Che cosa succede? Lui è un signore, è un cittadino di Verbania, che tornando dalla Sardegna si porta a casa una tartaruga. Ora io non ho capito bene come uno faccia a portarsi a casa una tartaruga dalla Sardegna, però vabbè, questo l'ha fatto. Cosa succede? Ne denuncia il possesso, però sbaglia a indicare la, la specie della tartaruga. Può succedere. Nel senso che immagino non fosse un esperto di tartarughe. Che cosa succede a questo punto in questo paese dove su questi errori siamo praticamente di una precisione pazzesca? Lui viene indagato, e già mi fa impazzire che uno sia indagato perché ha sbagliato la specie della tartaruga. Indagato vuol dire che si apre un fascicolo, vuol dire che c'è qualcuno che deve occuparsene, e via così. L'animale gli viene sequestrato, eppure qua c'è un sequestro operato dai carabinieri della tartaruga, anche se non ha mai lasciato il suo giardino, perché viene nominato custode della tartaruga la moglie dell'indagato. E vabbè, e fin qua speriamo che la tartaruga non avesse nulla da dire. Ora, la giustizia però fa il suo corso, come si dice in questi casi, e riconosce la buona fede dell'uomo. Ho capito, ma spiegatemi perché uno doveva mentire sulla specie. Vabbè, comunque. E il fascicolo viene archiviato. A quel punto i carabinieri si presentano a casa sua, quindi altra spesa pubblica. I carabinieri prendono l'auto, vanno a casa dell'indagato per operare il dissequestro della tartaruga. E fin qua dici, beh, tutto bene. No, c'è un problema, la tartaruga è in letargo, non sto scherzando, è sottoterra, e quindi il provvedimento non può essere eseguito, con la conseguenza che i carabinieri dovranno uscire un'altra volta aspettando che la tartaruga, questa non è colpa sua, ha un letargo biologico, esca dal letargo, e a questo punto i carabinieri andranno dal proprietario a dissequestrare la tartaruga, che passerà dalle mani della moglie dell'indagato, a questo punto non più indagato, al legittimo proprietario, il tutto probabilmente nella totale inconsapevolezza della tartaruga medesima, ma che forse meglio che non sappia in che paese è finita a vivere. Questa è, cioè, fa ridere, per carità, fa meno ridere quello che sto per leggere, che invece mi fa abbastanza arrabbiare, ed è sempre al quinto posto, non ho messo i due perché la tartaruga non mi bastava. Allora, qui c'è una cosa assurda. Niccolò Fabi, un cantante, dopo la scomparsa della figlia Olivia nel 2010, decide di organizzare un evento che si chiama Parole di Lulù nel 2016, una raccolta di fondi nata dall'omonima fondazione, e sceglie nel 2016 la Puglia come meta di beneficenza, che quindi decide di destinare i soldi di quell'evento per un parco giochi a misura di bambino, in cui sia possibile giocare senza entrare in contatto attraverso la pelle e la bocca con le aree verdi che risultano oggi contaminate. È un progetto molto nobile da parte del cantautore romano. Perché sono incavolato? Perché lui ha i soldi, li raccoglie al comune di Taranto nel 2016. Stiamo parlando di un parco giochi per bambini, non stiamo parlando di un aeroporto o di un grattacielo da 200 piani, un parco giochi per bambini. Ebbene, individuata l'area nel quartiere Tamburi, a tuttora non è stata posta neanche la prima pietra. E qui non dite che la colpa è di Roma, dello Stato, della politica in generale, qui la colpa è del comune di Taranto. Tant'è che lui è l'unico progetto, quello di Taranto, che non siamo riusciti a portare a termine in 10 anni di fondazione. Forse è stato presuntuoso da parte mia entrare in un contesto così articolato. Taranto è un meccanismo complicatissimo, è una situazione che va al di là della burocrazia presente in tutta Italia. Il nostro era un progetto a margine e simbolico, ma è entrato nel vortice, continua Niccolò Fabi, di interessi e campanilismi. È sempre l'ego che rallenta un lavoro collettivo e corale. La risultante è che siamo fermi. Tutto è approvato per fare un parco giochi per bambini, ma ogni volta salta fuori un ulteriore cambio, un'attesa, un protocollo, una bonifica. E io dico, caro sindaco di Taranto, mi rendo conto che lei abbia altri problemi, c'è l'ILVA soprattutto, però nel frattempo, visto che c'era anche un progetto di trasformare l'ILVA in un parco giochi, potete partire dal parco giochi dei bambini? Almeno quello? Nel quartiere Tamburi? Almeno quello? Ci può far sapere, adesso lo cercheremo, perché sto parco giochi è bloccato da voti, cambi, attese, protocolli, bonifiche? E anche forse le bonifiche, quanto ci si mette a fare una bonifica nel parco giochi per bambini? Dunque, non vi dico cosa sta arrivando sulla tartaruga, lo Ius Soli per la tartaruga, vabbè, ho capito, adesso non andiamo avanti con la tartaruga, andiamo avanti con cose un po' più gravi, come quella del quarto posto della poco invidiabile classifica. Sapete che si sale, qua verrebbe da ridere, eh? purtroppo è tutto vero, e devo dire che quando la realtà supera il cinema, la cinematografia, anche la cinematografia da Oscar, dopo il meteo e la pubblicità. Focus Economia. Dunque, qualcuno mi dice che la storia della tartaruga ricorda quella mitica del piccione ucciso da un uomo ubriaco. Ne abbiamo già parlato. 16 anni di inchiesta, 16 gradi di giudizio, 18 magistrati, perché... Ma non posso tornare sul piccione, è una storia del 2015, era una delle migliori, tra l'altro, se non mi ricordo male. Vabbè, andiamo al quarto posto, e qui si sorride un po' meno, o meglio, uno potrebbe anche sorridere. Qualcuno di voi ricorderà un film molto famoso con Sofia Loren, che vinse anche un Oscar nel 65, di De Sica, Ieri, Oggi e Domani. Lì si ripercorreva la storia vera di Concetta Mucciardi. Era una contrabbandiera napoletana nella Napoli del secondo poguerra, che per non andare in carcere, contrabbandava sigarette, continuava a restare incinta. Ebbe 19 gravidanze, 7 di quali, diciamo, che portate a termine con la nascita dei figli. E appunto De Sica fece un film nel 63 con la Loren. Ora, adesso per favore fatemi fare, se mi contenta, a scrivere sulle migliori, come il forestale che faceva l'attore porno a sua insaputa, non andiamo più avanti oggi, anche quella era il numero uno. Comunque, torniamo all'Emula di Concetta Mucciardi. Anzi, non è Emula, perché almeno Concetta Mucciardi nel 1956 i figli li faceva, cioè era veramente incinta, e alcune gravidanze, per fortuna sua, sono andate poi a compimento. 7 figli ha fatto. Qui siamo di fronte a un caso assurdo, alla 4.0, cioè c'è una signora, una furbastra, una ladra, insomma, di 50 anni, che ha incassato dall'INPS più di 100.000 euro in questi anni, ma soprattutto non ha mai lavorato dal 2000 nell'ufficio in cui era assunta, assegni di maternità a pioggia, non ha lavorato per 20 anni. Perché? Perché ha avuto la bellezza, poi uno dice che c'è la crisi della natalità in Italia, tutti come lei, non vi sarebbe nessuna crisi. Dunque, quante ha avuto? 16 gravidanze, 16 gravidanze in 20 anni. Prego gli ascoltatori di evitare le battute, ma 16 gravidanze in 20 anni, una roba, un mulinello praticamente. Ecco, 16 gravidanze, tutte a rischio. E qui il caso diventa clinico, diventa quasi da Lancet, da essere studiato sulle riviste più importanti, dall'Associazione dei Ginecologi e quant'altro. Peccato che nemmeno una, dicici una di queste gravidanze, fosse reale. Quindi ha percepito 100.000 euro di assegni di maternità, non si è mai presentata al lavoro dal 2000 e... praticamente cosa succedeva? Ogni volta che restava incinta, era gravidanza a rischio, che è una cosa molto seria quando è vera, e una condizione che l'obbligava a stare ferma fin dai primi mesi. L'unica fatica ammessa era quella di riscuotere l'assegno mensile. Ora, l'hanno smascherata i carabinieri di tutela del lavoro, l'hanno fotografata tra l'altro senza un filo di pancia al supermercato, mentre doveva stare distesa in appartamento. E poi c'è la questione dei figli, perché su 16 gravidanze lei aveva dichiarato che 4 sarebbero, cioè sono terminate con successo, cioè sono nati dei figli. Ora, tutte femmine, tra l'altro. La cosa pazzesca è che queste 4 figli non esistono, ma esistono all'anagrafe. Cioè, qua altro che il fumatia Pascal. Qui stiamo andando in una cioè, perché lei ha registrato all'anagrafe le 4 figlie, ma le 4 figlie non esistono, quindi se tutto tanto mi dà tanto, siamo 4 in meno in questo paese. E quindi nessuno conosce l'esistenza. Forse qualcuno ipotizza un complice. Fatto sta che l'hanno beccata e adesso si è presa, le hanno contestato l'INPS 100.000 euro. Ma io dico, ma guarda cosa riesce a fare... e forse finirà anche dietro le sbarre se condannata, c'è pur di non lavorare, no? Ma dico, ma guarda, ma va al lavoro, no? O licenziati, visto che c'è tanto bisogno di posti in occupazione. No, questo non è utero in affitto, questo è parto inventato, non mi era mai capitata una roba. Andiamo al terzo posto. Oh, dalla tartaruga alla finta, eccoci qua, terzo posto, andiamo sulle case, qui saliamo al nord e torniamo a parlare del Comune di Milano. Questa, qui c'è poco da ridere adesso, qua poi si sale in classifica, meno da ridere c'è. Allora, il Comune di Milano ha 29.000 case popolari di proprietà, che sono gestite dal 2014, da quando vengono tolte all'ALER, dalla metropolitana milanese. Che cosa sta scoppiando o rischia di scoppiare? Beh, tanto per cambiare, quando si parla di case popolari, indovinate un po' che cosa rischia di scoppiare? Affittopoli milanese. Allora, c'era una c'è una funzionaria della divisione casa che vive in una casa popolare gestita dalla stessa funzionaria, e già questo lascerebbe quei dubbi, ma ci sono case, se non ve li posso raccontare lungo tutti, ci sono. Allora, una custode di metropolitana milanese che abita in un alloggio del comune in mano alla metropolitana milanese davanti a Piazza Fontana, è una zona di stracentro, per carità. Il vigile commissario della polizia locale che occupa un altro appartamento comunale di prestigio dietro la biblioteca ambrosiana, stracentro. La figlia di un autista del manager di un manager della metropolitana milanese, cioè la figlia di un autista che risiede in una casa con contratto intestato a una zia, e poi non so, Levi Strauss, i legami elementari della parentela, e il cognato della suocera, che casa, e qui addirittura ci sono dubbi anche sulla parentela. E poi c'è l'ispettore di metropolitana milanese che abita in una casa popolare dove non è residente. Insomma, stanno cercando di capire, anche perché da quello che abbiamo capito la gestione e l'indagine è nota, la situazione è nota alla procura, c'è un esposto presentato alla Guardia di Finanza e ci sta lavorando l'assessorato alla casa del Comune di Milano. La donna, tutto nasce per che cosa? Perché nell'ottobre 2012 c'è una donna che firma con l'ALER il contratto per un appartamento. Nel nucleo familiare compare il padre. Il piccolo, diciamo, dettaglio: il padre, che dovrebbe essere un componente del nucleo familiare, è morto nel 2006. Ma oggi è una classifica tra finte gravidanze, tartarughe sequestrate, padri vivi che sono morti. Io non voglio capire come si fa a fare l'anagrafe in questo paese, in questo modo. Vabbè, andiamo avanti. Deceduto nel 2006. A quel punto l'alloggio le costa 230 euro al mese, cioè l'anno dopo 205. Nel nucleo familiare figura solo la donna, che appunto ha le dirette dipendenze del direttore della divisione casa, e già sarebbe un problema, almeno insomma, evitare che un dipendente di metropolitana milanese con un ruolo di livello della divisione casa viva in uno degli alloggi che deve assegnare. Poi possiamo andare avanti così in via Zeccavecchia e quant'altro. Ora invito in piazza D'Ateo, zona signorina, in zona Risorgimento, c'è un'altra famiglia molto nota alle cronache per quello che riguarda le case popolari, l'autista e quant'altro. Ora io lo dico, l'ho messa al terzo posto perché da quello che ci risulta potrebbe, e immagino che l'assessore alla casa del Comune di Milano e la metropolitana milanese stiano lavorando lacrimente per verificare tutti questi casi, perché già solo quelli che ho citato possono portare a dire che si rischia una affittopoli o metropolitanopoli, non lo so, ma in realtà guardate che la metropolitana non c'entra niente, è solo che l'ALER, cioè è solo che la gestione delle case è andata alla metropolitana milanese dopo che è stata elevata all'ALER, per questo parliamo della metropolitana milanese. Andiamo sul traffico, dai. Focus Economia. Oh, dunque, non vi dico cosa sta succedendo con WhatsApp, SMS sui 16 finte gravidanze tutte a rischio. Sì, giustamente mi fate notare, guardate che qualche certificato qualcuno deve averlo fatto, non è che ti inventi qualche ginecologo compiacente 16 volte sempre lo stesso. Qualche mancato controllo, qualcuno mi dice forse lavorava in un posto pubblico, perché nel privato, cioè tu inizi a avere 16 gravidanze a rischio, non vai al lavoro per 20 anni, ti mandano un controllo, non lo so, so che voglio dire, ma ragazzi, 16 gravidanze a rischio, nessuna vera? quattro figli registrati all'anagrafe, nessuno esistente. Ma qua usciamo dalla cronaca della classifica per entrare nel mito, appunto, come il forestale Calabro che faceva l'attore porno a sua insaputa, e i 18 magistrati e i 16 processi per quello che da ubriaco con il fucile a pallina ha tirato giù un piccione che è morto ma poi ha sostenuto che non voleva sparare al piccione, era un magistrato pure lui. Guarda, anche la tartaruga non è male, che ancora è dissequestrata a sua insaputa in questo caso, perché è ancora in letargo. Ma andiamo al secondo posto. Sto perdendo anch'io i colpi sulla classifica. Eccolo qua, secondo posto. Questo non è un posto, è una carrellata che adesso vi leggo velocemente. Perché tutti dicono: ma è lo Stato, funziona male. Lo Stato, sì, per realtà, la burocrazia. Però guardate che anche il singolo cittadino che tanto critica lo Stato, la burocrazia, non è da meno quando in questo paese. No, dico perché ognuno, una volta si diceva, ha la classe dirigente che se merita. Allora, partiamo dall'operazione della Guardia di Finanza Mille Miglia, che già nel 2016 puntò gli occhi sul fallimento di una società con sede a Bologna, dal cui patrimonio erano stati sottratti beni per 7 miliardi e mezzo. Insomma, a forza di fare controlli e sequestri hanno scoperto che cosa? Purtroppo non ho il nome. Hanno scoperto che l'imprenditore, già allora denunciato, che risulta formalmente residente nel Principato di Monaco, ma domiciliato a Pavia, è ritenuto soggetto fiscalmente e socialmente pericoloso. Gli hanno messo i sigilli a 10 immobili. Allora, lui risulta nullatenente, nullatenente. Anzi, per essere precisi, dal 1979 ad oggi ha complessivamente dichiarato redditi per soli 165.000 euro. Magari anche lui sosteneva che era giusto non pagare le tasse finché i servizi non saranno adeguati, finché non verranno abbassate le tasse. Lui ci aveva già pensato. Immagino che però quando avesse bisogno dell'ospedale, degli insegnanti, dell'asilo, dei mezzi di trasporto, non li usava, pur dichiarando 165.000 euro dal 1979 e avendo di sua proprietà 10 immobili, di cui 3 complessi immobiliari con parco, piscina e autorimessa, 2 a Pavia e 1 a Cap Martin, 30 veicoli, ma no la Punto, la Mini, anzi la Punto, la 500, no, aveva Bentley, Range Rover, Ferrari e auto d'epoca, ciò nonostante era nulla tenente. Le indagini hanno fatto emergere come l'uomo commercializzasse autoveicoli di assoluto pregio in Italia, evitando le imposte, ha omesso di dichiarare redditi per 96 milioni di euro e ha accumulato un debito dal 1984 ad oggi verso lo Stato, verso tutti noi, quantificabile in 140 milioni di euro. 140 milioni di euro. Ora, non lo so, non si arresta uno così, chiedo, non so se esiste ancora, non ho capito poi che fine abbia fatto. Ma più che arrestarlo, perché poi mi tocca pagargli pure il carcere. Io sono sempre dell'idea: mandatelo a fare i lavori socialmente utili per i prossimi, finché non estingue il debito con lo Stato. Servono bidelli, servono infermieri non specializzati, chiaramente mancano portinai nelle strutture d'accoglienza pubblica, quello che c'è, soprattutto anche lavori nobili come gli addetti alle pulizie, ma che impari un lavoro e che ritorni i soldi lavorando gratis per gli anni che deve, per i 140 milioni che ci deve, capirà, e lavorerà fino a tardi, ho capito, è rubato fino adesso. E adesso il resto invece che del secondo posto. Qui partiamo con la carrellata del reddito di cittadinanza. Allora, una cosa la voglio dire, ho sempre detto che il reddito va bene quando è forma di welfare, come era il reddito di inclusione fatto poco e tardi dal governo Gentiloni, quindi non ritiro quello che ho detto. Problema è che io vorrei capire come vengono fatti i controlli, perché qua beccano persone che erano percettori del reddito di cittadinanza solo quando fanno controlli di altro genere. E adesso non ho più tempo, probabilmente vi faccio la sfilza anche questa settimana di chi, tra l'altro, hanno la faccia, diciamo, di tolla, perché fanno operazioni mentre prendono il reddito di cittadinanza. Poi c'è il caso di Locri che batte tutto, e poi andremo finalmente al primo posto. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Ah, stai rinnovando casa. Allora aggiungi un tocco tutto nuovo con le cucce e i cuscini scontati del 20%. E poi un bel pranzo tra amici con Royal Cat Boost 85 grammi, varietà assortite in promozione 3x2 e tutte le diete veterinarie scontate del 20%. Ma affrettati, le promozioni scadono il 26 gennaio. Ah, grazie. Allora... No, scusi, parlavo con Lea. Ogni giorno mille promozioni da Arca Planet. Pet Store, Pet Stories. Nel 2002 mi sono diplomato. Nel 2006 ho aperto un bar. Nel 2010 mi sono sposato. Nel 2011 è nata mia figlia. Nel 2015 sono stato arrestato per omicidio. Nel 2016 sono stato condannato a 30 anni. Nel 2018 sono stato assolto con formula piena. Troppo spesso consideriamo mostro un innocente. Il Riformista è l'unico giornale che combatte ogni giorno contro manette facili e giustizialismo. Il Riformista, il quotidiano uguale a nessuno. Da Anystation c'è una novità che non vediamo l'ora di dirti. A febbraio, per chi paga il rifornimento con carte BancoPosta o PostePay, arrivano gli sconti Poste. E già da oggi, con carta di pagamento, puoi pagare i bollettini postali premarcati. Scopri le stazioni aderenti e le carte di pagamento utilizzabili su anystation.com. Anystation. Puoi farci anche rifornimento. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per informazioni sull'iniziativa Sconti Poste vai su poste.it. Per il pagamento dei bollettini postali consulta il fascicolo informativo presso le stazioni aderenti. Biennale, grandiosa, completa, è Fiera Agricola 2020. Da mercoledì 29 gennaio a sabato 1 febbraio tutte le innovazioni in agricoltura, zootecnia, viticoltura e agroenergie a Verona per tracciare le linee del futuro. Aree demo macchinari, mostre zootecniche internazionali e la nuova rassegna nazionale avicoltura. Fiera Agricola a Verona Fiere dal 29 gennaio al 1 febbraio. Biglietti e programma fieragricola.it. Focus Economia. Dunque, di nuovo in diretta, 18:07 minuti con Sebastiano Barisoni per il secondo posto della classifica, che al di là del mega evasore da 140 milioni di euro al maxi sequestro che gli hanno fatto. Vorrei fare la lista molto rapida dei finti poveri, o meglio dei finti percettori, del veri percettori ma non titolati sul reddito di cittadinanza. Allora, partiamo da Modena, dove ufficialmente lui era un senza tetto, però era senza tetto ma aveva 78 veicoli intestati e poteva dormire in macchina. Un indirizzo fittizio a Bologna, prendeva il reddito di cittadinanza. Lo ha beccato la polizia locale di Modena, ma non perché stava controllando il reddito, perché l'uomo non aveva pagato 53 sanzioni, multe, per un importo di 12.000 euro. È arrivato a possedere fino a 37 vetture ed essere titolare di una rivendita di auto senza aver mai presentato denuncia dei redditi. Secondo l'accusa, fungeva da prestanome. Denunciato, la procura di Modena dovrà dare restituire 4.000 euro di reddito già intascati. E poi a Polla, in provincia di Salerno, hanno beccato in un controllo antidroga una mamma pusher, aveva un etto di droga e di cocaina nascosto in parti intime. Il punto che dopo aver fatto altre perquisizioni, tra l'altro tutta la droga era tenuta anche vicino alla bambina di 2 anni, una situazione veramente insomma, si sono accorti che la donna percepiva il reddito di cittadinanza ed era già nota le forze dell'ordine. Ancora un altro genio che prendeva il reddito di cittadinanza e intanto vendeva abusivamente gadget e abbigliamento in occasione dei concerti ad Assago e Mediolanum Forum. Hanno fatto un controllo alle Fiamme Gialle e hanno multato 17 persone e di lui hanno beccato anche il reddito di cittadinanza. E poi il caso macro, aspettate, a Roma c'è invece, continua a scendere la penisola, sfruttatore di prostitute e titolare di reddito di cittadinanza, incassava un centinaio di euro dalle ragazze che incontravano i clienti nelle piazzole dell'Aurelia alle porte di Roma. E poi però c'è stata una lite fra due giovani rumene per motivi di mattonella, cioè di dove posizionarsi. Non posso entrare nel dettaglio della prostituzione, c'è un programma che segue questo, che se ne occupa già ampiamente, già abbastanza direi. È stato tradito il pappone, insomma, da una delle contendenti che lo ha denunciato ai carabinieri. Così lui, finto disoccupato di 64 anni, è stato arrestato con due complici rumeni finiti in carcere con lui. E poi c'era anche un 91enne che è stato messo prima ai domiciliari e poi colpito dall'ordine di stare alla ragazza. 91 anni, ma non c'è altro da fare che fare pappone. Comunque, quest'ultimo, residente ad Aranova, aveva il compito di portare il pranzo e la cena alle prostitute in modo che non perdessero tempo e si allontanassero dalla strada. È una forma di taylorismo applicata, diciamo, al marciapiede. E si è scoperto che, tra l'altro, aveva reso cittadinanza e è anche emesso che era lui ad acquistare il biglietto dell'aereo per far arrivare le ragazze dalla Romania. Infine, Napoli, tassisti abusivi a bordo di auto senza assicurazione, senza revisione e in un caso anche con la patente revocata. Ma che deve fare? Allora, non c'è la revisione, non c'è l'assicurazione, non hai la patente perché è stata revocata e facevi pure il tassista. Segnalati all'INPS anche perché facevano parte dei nuclei familiari che percepivano il reddito di cittadinanza, usavano vecchie e malfunzionanti Fiat Multipla prive di coperture assicurative con patenti revocate dal 2010, sanzioni amministrative da 2.000 a 7.000 euro. Infine chiudiamo con Locri, dove si arriva al top oggi, perché hanno beccato boss, capi e gregari di diversi clan dell'Andrangheta, intestatari di auto di lusso, incluso una Ferrari, proprietari di ville multipiano, appartamenti di pregio, tutti con la tessera del reddito di cittadinanza. Io voglio capire i controlli come li hanno fatti, però, a questo punto. 237 persone nella Locride. E intascavano sostanzialmente sussidi per 900.000 euro, cioè qua rischiamo di non solo non perseguirli ma anche di finanziare pure i camorristi, in questo caso gli andranghetisti o mafiosi. Li ha scoperti la Guardia di Finanza anche qui, facendo verifiche non sul reddito ma sui lavoratori agricoli, e cercavano falsi braccianti, che è un fenomeno in me comune in Calabria, dove le liste del collocamento sono piene di gente che sulla carta ha lavorato nei campi un periodo sufficiente per godere dei sussidi di disoccupazione di maternità ma non ha mai visto un campo in vita sua. Ne hanno beccati 237 che avevano anche chiesto e ottenuto il reddito di cittadinanza, e scorrendo le liste hanno beccato componenti di intere famiglie dell'Andrangheta, molti dei quali erano arrestati o sotto processo o in galera con l'accusa di associazione mafiosa. Ecco perché io non capisco come fai i controlli l'INPS. Ma se questo sta dentro, è in galera, ma come fai a non vederlo? Poi c'era un esercito di lavoratori a parità IVA che avevano dimenticato di presentare la dichiarazione dei redditi, diciamo dimenticato, e tra l'altro è più di un soggetto che aveva estromesso dal proprio nucleo familiare coniugi o genitori perché avevano un reddito troppo alto. Era tutto un giochetto per poter percepire il reddito di cittadinanza. Allora, oltre 870.000 euro di fondi pubblici finiti in mano a chi non aveva alcun diritto dovranno restituire quanto incassato, auguri, e anche sono stati denunciati insieme a 73 sottoscrittori di DSU, il documento per attestare la propria condizione reddituale, irregolari. Rischiano pena da 2 ai 6 anni, appunto. Il costo complessivo è di 900, quasi di 870.000 euro. E adesso andiamo, sono un po' sfinito oggi, andiamo al primo po' tra tartarughe, finte mamme, andiamo al primo posto in classifica. Qui non c'è purtroppo nulla da ridere, ma solo da incavolarsi. And the winner is... Allora, io vorrei capire che cosa deve succedere in questo paese perché venga risarcito un pompiere morto nel 2005 svolgendo il suo lavoro e anche gli altri pompieri che sono rimasti feriti. Racconto la vicenda. Nel 2005 a Serra Riccò scoppiò l'autocisterna di GPL. Ora, la compagnia assicurativa, nonostante la sentenza di primo grado del Tribunale Civile e nonostante il pompiere che si chiama Giorgio Lorefice deceduto e premiato dall'allora presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi con la medaglia d'oro al valore civile, e nonostante le onorificenze siano state date ai suoi colleghi, non hanno ancora il risarcimento. Allora, ci sono due casi qui. Io capisco il ruolo degli avvocati, delle compagnie di assicurazione, di Europam e HDI, e di Allianz, che assicurava le autobotte, HD e l'assicurazione di Europam, era la società poi fallita. Però abbiate pazienza, c'è una sentenza di primo grado, no. C'è il Presidente della Repubblica che ha dato l'onorificenza civile, medaglia d'oro. Allora, delle due l'una: o il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi ha dato una medaglia al valore, medaglia d'oro al valore civile sbagliata, oppure le compagnie di assicurazione si mettono la mano sulla coscienza e la piantino. Vi spiego cosa sta succedendo. Allora, secondo i motivi dell'appello che HD Assicurazione ha depositato contro la sentenza di primo grado del Tribunale di Genova, che il 5 dicembre ha condannato Europam insieme agli altri soggetti a risarcimento di 1.200.000 euro per quell'episodio, l'esplosione è da addebitare a un intervento negligente, imprudente dei vigili del fuoco. Ecco perché dico: allora, abbiamo dato una medaglia d'oro a valore civile a uno che ha causato un'esplosione? Un po' singolare come tesi. Allora, che cosa succede? È il 26 gennaio del 2005. Un mezzo della ditta Sare Gas stava riversando il GPL dell'azienda Green Oil, che adesso si chiama Europam, in un serbatoio della ditta GBM utilizzato per riscaldamento. Durante il travaso l'autobotte perse del gas liquido che si incendiò. Arrivano i vigili del fuoco e durante i soccorsi l'autobotte esplode. Vengono feriti 7 pompieri e purtroppo perde la vita Giorgio l'orefice. Da allora la posizione è proseguita la causa civile per il risarcimento degli eredi l'orefice dei pompieri feriti. Dicono gli avvocati di l'orefice dei pompieri feriti: abbiamo sempre cercato un accordo con Europam e HD senza alcun risultato. Nella sentenza civile di primo grado il giudice Cristiano Buttiglione quantifica il danno dell'esplosione in circa 1.200.000 euro. 750.000 sono dovuti agli eredi di l'orefice e 450.000 agli altri pompieri. La cifra destinata a salire con gli interessi ha condannato al risarcimento in soldi tra di loro la società Europam, i soci all'epoca dei fatti della società Sare Gas e l'autista Simone Bonomelli. Per alcune parti offese è previsto il risarcimento in soldi anche a carico di Allianz, che assicurava l'autobotte. Al tempo stesso ha condannato HDI, l'assicurazione di Europam e Allianz, che assicurava Sare Gas, a tenere indenni Europam e Sare Gas da ogni sborso per i quali è stata pronunciata condanna. In soldoni devono pagare loro. E arrivano i vari ricorsi e, diciamo, da questo punto di vista, i legali chiedono la sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado, ossia di non pagare nulla finché non si arrivi alla sentenza d'appello. Ora, siccome qua stiamo parlando di una cosa che ha 15 anni, l'appello, se va bene, arriverà fra 2 anni. Cioè, qui cosa devono pensare le famiglie? A parte il fatto che, ripeto, di fronte a una medaglia d'oro, o rimettete in discussione tutto e avete il coraggio anche di fare una causa per cui venga tolta la medaglia d'oro al pompiere morto e le altre onorificenze, perché se è lui che ha provocato l'esplosione, che è la vostra linea difensiva, no? Abbiate il coraggio di dire che va levata la medaglia d'oro, o se no pagate. Che le assicurazioni esistono, perché io non ho ancora capito quale sia. Siete stati condannati in primo grado a risarcire, ma è mai possibile? Tra l'altro sostenendo che l'esplosione l'ha creata il pompiere, no? A un intervento negligente in prudente dei vigili del fuoco, quando il danno era stato creato non certo dei vigili del fuoco. E faccio notare che un vigile del fuoco guadagna tra i 1.400 e forse arriva ai 2.500 euro al mese. I 34.000 pompieri italiani non hanno tutela INAIL in caso di incidenti sul lavoro. La legge ha messo 25 milioni di euro in più, ma 10 sono una partita di giro, e c'è stata una manifestazione lo scorso 19 novembre a Roma. Quindi l'applauso non va sicuramente né a HP né a Allianz. Non ho niente contro HP e Allianz, ma insomma, ma c'è un limite a tutto, no? Adesso attendere il pagamento finché non arriva la sentenza di appello. E l'applauso invece va in maniera estemporanea, ma neanche tanto, a tutti i vigili del fuoco del nostro paese, che con stipendi sicuramente non adeguati e con coperture assicurative non adeguate rischiano la vita tutti i giorni per noi, anche per gli evasori fiscali. Così mi ricollego ai furbetti dal secondo, terzo e quarto posto in classifica, purtroppo la rischiano anche per quel tipo di evasori fiscali. Paolo Barbato, numero uno e cofondatore di Wise Air, buonasera. Buonasera vice direttore, buonasera. Grazie. Grazie per averci invitato in trasmissione. Allora, un attimo di pazienza, ho il traffico 349-238-6666 per sms e whatsapp. Focus Economia. Allora Barbato, che cosa fa Wise Air? Chi l'ha fondata? Chi vi ha aiutato? Quanti siete? Quanto fatturate? Un fiorino. Grazie direttore. Allora, Wise Air nasce con la missione di creare un nuovo paradigma per il monitoraggio ambientale della qualità dell'aria nelle città. E questo paradigma, diciamo che è nuovo, direi, per due aspetti principali. Uno è completamente complementare rispetto allo stato dell'arte, no? Gli ascoltatori conosceranno le agenzie regionali per la protezione ambientale, le centraline ARPA. Sì. Esatto. Quelle lì sono centraline. Senta, veramente molto. Dicano che cosa fa, cioè, che cosa producete voi? Noi facciamo questo vaso da balcone. Perché il paradigma a me riporta un po'. Allora, un vaso da balcone che ha la capacità di misurare la qualità dell'aria, ho capito bene? Esatto, esattamente. E come fa? Allora, il vaso che abbiamo progettato noi, ricollegandomi anche all'altra domanda, chi siamo? Siamo un team di 5 neolaureati del Politecnico di Milano, okay, tra ingegneri e designer, e quello che fa il vaso da balcone è si alimenta completamente con la luce solare, quindi ha un pannellino fotovoltaico che gli garantisce l'energia necessaria per funzionare e poi ha cadenze temporali scandite, continuative, misura le concentrazioni di particolato, quindi PM1, PM2.5, PM4 e PM10 nelle varie dimensioni e manda questo dato a dei server centrali attraverso il wifi di casa, al nostro server centrale che poi aggrega tutti i vasi provenienti, i dati provenienti dai vasi sparsi in giro per la città per creare delle mappe dettagliate, capillari. No, anche perché delle volte le centraline ARPA fotografano una realtà ma che può essere diversa nelle varie aree. Senta, ma questo lo immaginate uno strumento per il privato cittadino? Cioè io voglio sapere com'è la qualità vera dell'aria dove abito io, non quella della centrale ARPA, o per il comune? Allora, qui c'è un annuncio ufficiale che voglio fare. Mi dica. Voglio approfittare di questo momento. Noi ci stiamo avvalendo del grande spirito di partecipazione dei cittadini per distribuire vasi sui balconi che diventano così dei nasi, dei nasi dello smog al servizio della comunità. E siamo partiti da Milano. In Milano già abbiamo ricevuto 100 adesioni da parte dei cittadini che sono state raddoppiate, quindi ogni vaso adottato dai cittadini verrà raddoppiato, ce ne sarà un altro promosso, sponsorizzato da Banca di Credito Cooperativo Milano, così a creare una rete, una prima rete, un caso studio di 200 vasi a Milano. Quello che voglio annunciare è che i dati raccolti da questa rete, proprio perché sì, creata a quattro mani con i cittadini, verranno regalati al comune. Quindi okay. Quanto avete raccolto e quanto pensate di fatturare, se pensate di assumere, che poi devo passare un altro tema. Sì. Con la campagna di crowdfunding abbiamo raccolto 40.000 euro in poco più di 2 mesi. Si chiuderà tra una settimana, quindi è ancora possibile donare qui a Milano. E per questo anno adesso stiamo valutando l'idea di ricevere un investimento per poter crescere oltre Milano, che è il nostro primo caso studio, in tutta Italia. Voi siete in cinque. Ma state cercando di assumere o cercate delle posizioni? Sì, allora abbiamo dei profili interessanti. Mi dica. I due principali sono un esperto, un ingegnere elettronico, quindi che ci aiuti a creare dei prodotti sempre migliori per il monitoraggio, e un esperto di comunicazione e digital marketing. Questi sono i due profili a cui siamo interessati. Allora, io vi auguro in bocca al lupo, ma non ho capito che intanto dei privati, però che regalerete i dati gratis. Io spero che sia la prima volta, poi i dati si pagano si vendono. Grazie anche a Paolo Barbato, numero uno e cofondatore di Wise Air, che vorrebbe dire aria saggia, se posso tradurlo in questo modo, dall'inglese. grazie di essere direttore. Giuseppe Roscioli, presidente del Federalberghi Roma, buonasera. Buonasera. Buonasera, buonasera. Senta, il tema che voglio affrontare con lei è troppo serio per essere affrontato in pochi minuti, quindi è un'anticipazione, le do appuntamento a lunedì. Voi oggi però mi dica che cosa avete denunciato. Allora, non ci giro attorno, l'ho detto in apertura, qui c'è un problema abitativo nelle città, soprattutto quando sono a vocazione fortemente turistica, Roma, Venezia, Napoli, Firenze e anche Milano, nella concorrenza che sta avvenendo con gli Airbnb, perché nessuno ti dà più l'affitto, ti spara prezzi altissimi, perché tutti vogliono l'affitto a breve. E la denuncia vostra riguarda però, se ben capito, anche il sommerso, Roscioli. Beh, la maggior parte di questi appartamenti affittati in questo modo sono affittati in nero. Tenete conto che sui vari siti non c'è mai l'indirizzo esatto di dove sta l'appartamento, è sempre una zona, proprio per garantire l'anonimato, che sia anonimo, e certo che consente questo di fare a loro. Sì, io ho detto Airbnb, in realtà ho sbagliato, che magari Airbnb è quella più visibile di tutte le piattaforme, molti sono anche annunci, no? Semplicemente. Ma sono 5 o 6 o 7 di queste che fanno questo tipo di lavoro. Però diciamo che questa in particolare, se voi andate sul sito, non trovate mai l'indirizzo. Proprio perché a quanto ammonta il nero che voi avete stimato? Perché adesso due cose, c'è poi l'emergenza abitativa di cui parleremo la prossima volta, ma c'è anche, intanto almeno finché affitti a breve, pagaci le tasse sopra. A quanto ammonta il nero? Ma supera il miliardo di euro. Solo a Roma? Solamente, esattamente. Teniamo conto che ci sono 31.000 inserzionisti e il Comune di Roma in tutto, compreso gli alberghi, ha circa 13.000 persone autorizzate, quindi non dica la differenza. Cioè ci sono 13.000 strutture autorizzate, inclusi gli alberghi, ma 31.000 annunci, c'è qualcosa che esatto. Non torna. E anche qualche annuncio dovrebbe avere uno, due, tre o dieci, certo. O la signora Bettina che si mette sul web, ha 99 appartamenti a Roma, quindi insomma direi che... Però abbiamo detto abbastanza. La mettiamo in classifica fra un po', la signora Bettina. Allora, senta, noi ci risentiamo lunedì, così apriamo dove abbiamo chiuso. Sempre con la signora Bettina, 99 appartamenti. Mamma che classifica, sembrava uno zoo oggi. Roscioli, gli do appuntamento lunedì. Intanto ringrazio come sempre Barbara Bianchi per l'assistenza in redazione e in regia. Auguro a voi in ascolto un buon fine settimana, soprattutto per chi dovrà trascorrerlo lavorando. Noi ci risentiamo in diretta domenica dalle 23 con lo speciale di Radio 24. Sulle elezioni in Emilia Romagna e in Calabria, e poi con Focus Economia lunedì dalle 17:00.